Oggi celebriamo uno dei misteri fondamentali, una delle verità, perché se dico mistero uno immagina che sia una cosa assurda e invece la parola mistero dice una verità non pienamente comprensibile all'intelletto umano, ma è una verità. Maria, assunta in cielo al termine della sua vita, anche con il suo corpo di donna, il suo corpo che aveva su questa terra come donna, come madre. Ora, anche a me è capitato di fare alcune prediche, chiamiamole importanti, perché è una festa importante, ma diventando vecchio, ormai dopo 50 anni che celebro la Santa Messa, io sento l'esigenza della essenzialità. Cioè vorrei trasmettere a voi che poi uscite di chiesa, andate a casa, una, due parole che vi restino però dentro. E le parole sono queste: la fede è bella ed è utile. La fede è bella ed è utile. E io lo dico perché sempre più ascoltiamo gente di tutte le età, non sono solamente ragazzotti, sono anche persone mature, che dicono: ma cosa serve andare a messa? Ma cosa serve credere? Sì, io credo che qualcuno ci sarà, ma non faccio niente di male. Può essere che uno non faccia niente di male. Dopodiché bisogna chiedersi allora tutto il male che c'è in giro da dove viene. Ma io cerco di dire a queste persone e anche a voi che la fede è una cosa bella e utile. E mi soffermerei su Gesù, perché Gesù è sempre la radice. Anche se festeggiamo Maria, sua madre, ma lei è importante proprio perché è madre di Gesù. La radice è la divinità di Gesù in mezzo a noi su questa terra. E che Gesù sia bello lo dicono ancora tante persone. A me capita di leggere su riviste cattoliche con una certa frequenza delle interviste a una poliziotta che si fa suora, a un cestista che si fa missionario, a un giovane studente ricercatore universitario che si fa prete. E mi chiedo, deve essere pure attraente, a parte che l'ho fatto anch'io quando avevo 20 anni, ma deve essere pure attraente lasciare una carriera, lasciare un amore, lasciare per andare dietro a Gesù. È fortunato chi lo scopre. E non solo è bello Gesù, ma la fede è anche utile, perché ti salva l'anima. Lo dite voi preti che c'è un'anima, lo dite voi preti che dopo la morte c'è il paradiso. Veramente non siamo solamente noi preti, lo dice tutto il mondo. Se voi guardate tutte le religioni, se voi guardate il sentire dell'uomo, questo anelito all'eternità, questo anelito all'infinito, ce l'hanno dentro tutte le religioni. Ogni religione parla di paradiso. E quando si parla anche di un amore umano, si dice per sempre, per l'eternità. E allora credere in Gesù Cristo non solo è bello, non solo ti sazia l'anima, ma anche ti dà la speranza della vita eterna. Amici, prima o poi si muore tutti, tutti. Anzi, ormai è nota la mia battuta che faccio, e la faccio anche stavolta, che voi morirete tutti, tutti. Forse anch'io, ma voi morirete senz'altro. Io morirò prima di voi perché sono più vecchio e andrò a vedere il volto di Gesù. Ora, se Gesù è il fondamento della bellezza e della utilità per la nostra vita, io vorrei questo, trasferirlo un momento sull'immagine di Maria, assunta col suo corpo in cielo. Maria assunta in cielo. Maria assunta in cielo è bella. Tu l'hai vista? Mi direte voi. Io no, ma tantissima gente l'ha vista nelle apparizioni. Io, arrivato alla mia età, ho capito solamente oggi che Maria può apparire sulla terra, così come apparire e farsi vedere da alcuni veggenti, farsi toccare, solo perché è in paradiso con il suo corpo. Non è solamente lo spirito, ma anche il suo corpo. Io sto rileggendomi per l'ennesima volta la storia delle apparizioni di Lourdes, perché mi commuove sempre e mi tocca il cuore quando leggo di Bernadette che dice: era bellissima. Ma noi tutti siamo affascinati dalla bellezza. E Bernadette e altre veggenti, anche in altre apparizioni, dicono: Maria è bellissima. Ma perché può mostrarsi bellissima? Perché lei viene dal cielo, dove vive normalmente, diciamo, col suo corpo, con la sua persona, dove vive lei. E quindi la festa dell'apparizione, la festa dell'ascensione di Maria al cielo, che ci richiama le apparizioni, ci dice che Maria è bella. E Maria, diciamo, la fede in Maria è anche utile, perché quante persone alla fine vanno a trovare Maria nei suoi santuari. Io conosco tanta gente che magari non va a messa, non si confessa, va in un santuario, si confessa, prega, va a Lourdes, magari torna indietro, continua ad avere poca fede, ma magari ci va 20 volte a Lourdes, e così a Medjugorje, e così a Fatima, e così a Guadalupe, e così. Quanto è, virgolette, utile la presenza di Maria in mezzo a noi, che appare e può apparire perché lei vive in paradiso col suo corpo, la sua anima, con la sua persona. Io ho finito, amici. Mi piacerebbe che oggi portaste a casa questa idea. Potevo fare anche un'altra predica, ne ho in mente, insomma, un po' di fede ce l'ho anch'io e un po' di anni li ho passati, ma oggi volevo darvi solo queste idee. Guardare Maria assunta è bello ed è utile per la nostra fede. Io vi auguro, qualche volta in qualche santuario, in qualche momento di preghiera vostra, di incantarvi di fronte alla bellezza di Maria, e vi auguro di saper andare a piangere sul suo cuore quando ne avete bisogno, perché il bello di Maria e l'utile di Maria, che è una donna di fede, ma non smette di essere madre, e se attira così tante persone è per la sua fede, ma anche perché è così simile a noi, è così simile a voi donne, che ciascuno di noi alla fin fine deve andare a farsi abbracciare sul cuore di una madre.